Poi se uno lo fa raffreddare può anche sgrassarlo, vero? Questo senz'altro. Vedi come sono brava! Ma quanto sei cuoca oggi? Siete deliziose insieme. Bruna, ci vorrebbe come nuorine? Come no? Vedi? Siete mitiche, vi fate impazzire. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma dimmi un po', amica mia, tu sei contenta del tuo operatore telefonico? Beh, direi di sì, anche se ogni tanto mi è venuta la tentazione di tradirlo con un'offerta più conveniente, però tu mi conosci, la pigrizia ha vinto e anche, ti devo dire, la paura di perdere un sacco di tempo e anche di soldi. Non hai tutti i torti, perché intercettare l'offerta migliore è complicato. Il problema, però, il problema dei tempi nuovi, è mollare il vecchio operatore, perché questi signori ci fanno pagare un sacco di soldi, sono i costi di disattivazione. Vedi, io di fronte a tutte queste difficoltà, burocrazie, lungaggine, costi, io mi spengo, mi passa la voglia, mi disattivo, ma ascoltando i nostri esperti forse cambierò idea e mi attiverò. Allora, mi raccomando, senti bene, presta l'orecchio, attiva l'udito. Ed è un invito che rivolgiamo anche ai nostri ascoltatori. Oggi disattiviamo i contratti telefonici, ma attiviamo l'udito, perché chi sente bene apprende e pensa meglio. Non state a pensarci su, chiamateci subito 800 24 0024. Partiamo. Partiamo. Salva Danaio. Eccoci in diretta. Allora, oggi, anche se sta avvicinandosi il Natale, sono certa che faremo arrabbiare molti ascoltatori, però noi vogliamo anche così aiutarli a sgombrare immediatamente tutta questa rabbia. Ci stiamo avvicinando alle feste, dicevamo, abbiamo già raccontato ieri come questo sarà un Natale, l'ennesimo purtroppo, in cui la tredicesima finirà in mutuo, TARES, IMU e magari qualche bolletta arretrata. E potrebbe anche essere la bolletta del telefono, e siccome è una spesa fissa, per qualcuno anche un po' onerosa, eccoci che magari ci viene la tentazione di fare un confronto per cambiare operatore, così come prima iniziativa dell'anno all'insegna del risparmio. Ma qui, Nicoletta, come ti dicevo in apertura, scattano i dolori, perché il cambiamento dell'operatore è tutt'altro che una passeggiata. C'è qualche amica che ti ha raccontato questa esperienza, capita? E allora vi raccontiamo, per questo motivo, una battaglia intrapresa da un'associazione dei consumatori, che è la Casa del Consumatore, che ha lanciato una raccolta di firme per l'introduzione nella prossima legge sulla concorrenza, chissà se il governo ce l'ha nei suoi piani, del divieto assoluto per tutti gli operatori telefonici di addebitare ai clienti qualunque somma a qualunque titolo in caso di chiusura del contratto. Quindi ci si lascia senza dolore. Ecco, esattamente, anche perché poi il dolore è solamente da una parte, mica certo dall'altro. Invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarci se a loro è capitato qualche volta di incappare in una disavventura di questo tipo. Assolutamente, mi piace, raccontateci 800 24 0024, perché è vero che dall'esperienza altrui si impara poco, ma tutto serve. Esatto. Allora, di che cosa con chi parliamo di tutto questo? Con chi ha intrapreso questa battaglia? L'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione Casa del Consumatore. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, nella telefonia siamo ancora schiavi, da quello che abbiamo capito, dei cosiddetti costi di disattivazione, ma la legge Bersani, quella del 2007, non aveva tentato quantomeno di abolire queste penali, avvocato? Ma sì, la legge Bersani ha proprio previsto che quello che allora esisteva, che erano delle penali per il recesso, non fossero più addebitabili alla clientela. Però che cosa è stato fatto salvo? Praticamente di poter comunque addebitare dei costi in sede di chiusura del contratto, purché giustificati da spese effettivamente sostenute dall'operatore telefonico, ancorandosi a questo dato testuale della legge. Sostanzialmente quello che diciamo noi associazioni è che le penali si sono mascherate in costi, ma sono rimaste sempre al loro posto. Sono uscite dalla porta per rientrare dalla finestra, diciamola così, avvocato Ferrari. Voi prima della petizione però che avete attivato in queste ultime settimane avete denunciato questa situazione alle autorità competenti insieme alle altre associazioni dei consumatori? Ma noi abbiamo fatto un altro tipo di opera, abbiamo messo a disposizione dei nostri associati e di chiunque si rivolgeva alla nostra associazione un modulo proprio per contestare queste spese, sia per chiedere il rimborso per chi le avesse già pagate, sia per invece chiedere lo storno per chi ancora non le aveva pagate. Ah, quindi si può chiedere il rimborso? Ecco, ci dica un po' in quante, questo mi piace, in quante lo eseguono questa indicazione, quante compagnie? Dico che praticamente tutte le compagnie addebitano questi costi di chiusura. Ma chi poi rimborsa una volta che il consumatore presenta questo famoso modulo che esiste e quindi la facoltà c'è? Ma allora, diciamo che noi la facciamo un pochettino da furbi, nel senso che spesso la compagnia telefonica non risponde a questo reclamo e allora non rispondendo noi facciamo passare il tempo e a quel punto eventualmente avviamo una procedura di conciliazione e chiediamo anche un indennizzo per il ritardo nella risposta o la mancata risposta, col che riusciamo spesso anche a compensare. Lo so, però mamma mia, se si dà questa opportunità al consumatore con un modulo di chiedere rimborso, allora perché deve intraprendere, poveretto, tutta questa faticosa operazione? Tanto vale cancellarle o quantomeno ridurle, perché il tema, che adesso ci spiegherà il nostro prossimo ospite, è proprio questo. Nel tempo questi costi di disattivazione si sono ridotti, però ancora sono troppo alti secondo la percezione dei consumatori. Allora chiediamo chiarimenti all'autorità garante delle comunicazioni. Abbiamo in collegamento con noi il dottor Sergio Del Grosso della direzione tutela consumatori di Agicom. Buongiorno e benvenuto, grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno. Intanto arrivano già i messaggi. Davvero? Ad esempio 40 euro tondi per lasciare Telecom un mese fa. E vi via. Dico solo questo. Una bella fettina di tredicesima è già andata. E allora continuate anche a chiamarci per raccontarci con la vostra viva voce queste vicende, se vi siete incappati in queste disavventure, perché altrimenti non possiamo definirle, all'800 24 0024. Dottor Del Grosso, stamattina ho la lingua che mi si... No, perché è un cognome un po' difficile, anche lei, Del Grosso, cioè tutto... Dice, non è colpa mia. Non si può neanche chiamare Sergio solo così, va bene, manteniamo il rispetto per il nostro ospite. Qual è la vostra posizione su questa vicenda? Ma dunque, innanzitutto vorrei ribadire che appunto la legge dà questa facoltà agli operatori e quindi l'importo che viene addebitato in bolletta è sicuramente dovuto. Anzi, vorrei anche qui specificare che qualsiasi richiesta di rimborso, se non arriva la risposta, comunque può ritenersi tranquillamente respinta. Quindi lei dice è dovuto intanto perché lo dice la legge. Assolutamente è dovuto perché lo dice la legge. Come ha detto giustamente il rappresentante delle associazioni, prima nel 2007 avevamo le classiche penali che si aggiravano intorno ai 100 euro. E non avevano, diciamo, una motivazione. Quello che ha fatto la legge Bersani è sostanzialmente sottolineare che qualsiasi costo che viene richiesto agli operatori deve essere un costo cosiddetto giustificato da operazioni che gli operatori pongono in essere per svolgere tutte le operazioni di disattivazione. Ma mi fa un esempio? Ma guardi, allora, innanzitutto devo sottolineare che la legge affida all'autorità di andare a verificare quali sono questi costi giustificati ed è quello che dal 2007 abbiamo fatto, cioè siamo andati presso gli operatori, abbiamo visto tutte le procedure che svolgono per porre in essere la disattivazione del servizio, siamo andati a verificare quali sono i costi che emergono da queste operazioni. Ne faccio solo un esempio: il costo del lavoro dell'addetto che va a registrare la richiesta che proviene dall'utente. Ovviamente è un costo orario che per esempio varia a seconda dei contratti di lavoro che sono presenti all'interno delle aziende. Quindi siamo andati a verificare tutto il processo e tutti i costi che ne derivavano e siamo riusciti ad abbassare, nel caso della migrazione, il costo di disattivazione, partendo dalle 100 euro classiche della penale, a circa 35-40 euro mediamente. Che è la cifra che ci indicano gli ascoltatori. Esattamente. A proposito, c'è questo. Diciamo che, ecco, giusto per specificare, la Bersani è servita quindi ad abbassare questi costi di circa il 60%, grazie ovviamente all'attività dell'autorità. Insomma, a proposito di migrazione, Massimo ci scrive: da non dimenticare, quando si cambia operatore, comunicare alla nuova compagnia il codice di migrazione, perché altrimenti si rischia di rimanere in ballo per mesi. È vero. E abbiamo anche Danilo che ci chiama da Bergamo. E lo sentiamo subito. Poi, tra l'altro, allora, visto che comunque questo risultato con le misure di Bersani nel tempo si sono, questo risultato si è ottenuto, da 100 euro in media siamo passati a 35-40, dobbiamo capire dalle associazioni dei consumatori perché invece questi costi vogliono totalmente abolirli, se vanno a remunerare qualcuno che lavora, perché bisogna abbatterli del tutto. Sentiamo però Danilo. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Guardi, io mi trovo in questo problema. Io ho fatto il contratto con Fastweb il 2 di ottobre. Dopo 62 giorni non mi avevano neanche risposto e il 2 di dicembre Telecom mi ha tagliato giustamente la linea. Li ho dovuti contattare io e il giorno 4 di dicembre gli ho fatto la raccomandata di disdetta, li ho contattati, gliel'ho anche faxata. Il giorno 6 sono riuscito ad avere il numero di trasferimento e gliel'ho comunicato. Oggi 17 dicembre, dopo tanti solleciti, non mi hanno ancora rigirato il numero alla Telecom. Allora, non so più come fare. Danilo, la comprendiamo perfettamente. Se vuole, magari, siccome conosciamo anche, abbiamo le relazioni con gli uffici stampa, con queste società, se ci vuole documentare un po' meglio il suo caso, lo gireremo ai diretti interessati. Però magari chiedo al dottor Del Grosso, per fare appunto una migrazione, un procedimento di portabilità, passare da un operatore ad un altro, intanto in quanto tempo le compagnie devono accontentare il consumatore, il nuovo cliente? Secondo la regolamentazione vigente, il tempo previsto è tra gli 8 e i 13 giorni. Ah beh, però è fisicamente, qua è successo qualcosa, Sì, no, però è fisicamente accettabile che questo tempo, insomma, arrivi ai 30 giorni. Oltre 30 giorni siamo in una fase che ovviamente può essere soggetta anche a sanzioni, in quanto c'è evidentemente c'è qualche problema ulteriore infatti, non giustificato. Allora come fare? Per esempio, Danilo, possiamo dare una mano a Danilo, che certo, come dovrebbe comportarsi? Qua fax addirittura, nel 2013 deve mandare un fax ad una compagnia di telecomunicazioni, dottor Del Grosso, ci sembra veramente inaudito questo, guardi, in questo aspetto. Sicuramente deve, oltre diciamo quei 15 giorni classici, doveva segnalare all'autorità quanto stava avvenendo e avviare anche un procedimento diciamo di contenzioso con gli operatori interessati, al fine sicuramente di ottenere qualche indennizzo, gli indennizzi previsti dalla regolamentazione, e cercare di capire che soprattutto che quello è il vero problema, di chi è la responsabilità di questo disagio che ha ricevuto, e quindi risolvere poi successivamente il problema. Allora, quindi deve perdere altro tempo per fare appunto la segnalazione. Nicoletta, vuoi leggere questi messaggi in cui gli ascoltatori lamentano costi ben diversi da 35-40 euro? Però mi sembra che poi se uno cambia lo fa a suo rischio e pericolo, diciamo la verità. Mi pare che si va incontro insomma ad un procedimento un po' tortuoso. Per esempio, pagato a Vodafone circa 90 euro. E uno. Poi, scusate, ma perché per un contratto di telefonia mobile sono ancora previsti 100 euro di costi di recessione? Eccolo là. Ammetisca, gli ha chiesto 80 euro meno di 6 mesi fa. E poi Fastweb, per chiudere la DSL, chiede 96 euro. Dottor Del Grosso, siamo oltre le cifre che lei ci ha indicato. Io credo che voi conosciate questa situazione. Sì, assolutamente conosciamo tutti gli importi e tutte le caratteristiche tecnologiche che comportano questi importi. Nel caso della cessazione del servizio andiamo sicuramente oltre quella media che avevo detto poco fa, perché c'è l'operaio diciamo che va a staccare il classico doppino in centrale, quindi quell'importo è un costo giustificato che si aggiunge a quelli già previsti per la migrazione. Stiamo parlando, dicevo, della cessazione del servizio, quando uno cambia casa e ovviamente disdice completamente la linea. Negli altri casi ci sono ovviamente diversità da operatore a operatore rispetto ai processi interni che vengono posti in essere per svolgere la disattivazione. Questa è una caratteristica sicuramente vantaggiosa della concorrenza, nel senso che nella diversità si dà la possibilità di scegliere quello che fa pagare di meno, no, per la disattivazione. Il problema è che questo costo lo sappiamo dopo, però non è come dire il che lo conosciamo questo, prima e possiamo scegliere. Infatti il problema è che l'utente dovrebbe, o il cliente dovrebbe guardare tutti i costi dell'offerta previsti nel contratto, non soltanto il costo di attivazione del servizio che spesso viene messo in proporzione e quindi non viene fatto pagare, ma bisognerebbe sostanzialmente andarsi a controllare quali sono tutti i costi, quindi anche il costo di disattivazione, che è diverso da operatore a operatore, dicevo. Ed è scritto, vero? È scritto sul contratto? È scritto sul contratto, ovviamente è obbligatorio scriverlo sul contratto, e proprio per permettere anche, do qui anche una notizia, per permettere una migliore comparabilità delle offerte, l'autorità lancerà il prossimo anno un sito di comparazione tariffaria che metterà finalmente in evidenza tutti gli elementi del costo di un'offerta, che forse attualmente sono ancora un po' nascosti, come appunto i costi di disattivazione. Benissimo. Sono presenti soltanto nel contratto. Come ha per esempio l'autorità per le assicurazioni, che ha il comparatore, eccetera. Sì, Nicoletta, so già dove vuoi andare a parare. No, perché ci scrive Antonio da Teramo, 80 euro per staccare un doppino, e cos'è un neurochirurgo? Perché proprio non ha detto un cardio, è un neurochirurgo. L'ultima domanda, Sergio Del Grosso, poi lo lasciamo e continueremo a parlare di questo, ma anche di udito tra un po' con Nicoletta e con un altro ospite, per chiederle: nel settore elettrico, dottore Del Grosso, i costi di voltura da un operatore ad un altro sono stabiliti dall'autorità del gas e l'energia. Perché l'autorità delle comunicazioni non può fare un intervento di questo tipo anche per un cambio di operatore telefonico? Ma innanzitutto perché la legge non ci consente di fare questo tipo di operazioni. Sicuramente noi possiamo, come dicevo, limitare l'importo addebitato all'utente, lo abbiamo fatto in passato e la vigilanza è continua sotto questo aspetto, perché stiamo indagando anche sul miglioramento di questi processi, sull'efficienza di questi processi interni, che potrebbero consentire un ulteriore abbassamento di questi costi di disattivazione. Certo, rispetto al grande taglio che è stato fatto originariamente di più del 60%, adesso stiamo andando a cercare di togliere insomma qualche euro, perché però, l'affinamento dei processi ce ne vorrebbero. Certo. Sarebbe un bel segnale che lei andasse a firmare la petizione della Casa del Consumatore. Adesso la facciamo sbilanciare un po' su questo. Sicuramente l'associazione ha accolto qual è il tema, cioè quella frase all'interno della legge Bersani che giustifica questi costi e diciamo l'addebito di questi costi. È chiaro che se venisse eliminata quella frase avremmo tutti qualcosa di meno a cui pensare. Certo, quindi, con tutti i dossier che ha adesso Enrico Letta sul suo tavolo. Grazie Sergio Del Grosso dell'Autorità Garante delle Comunicazioni, e per tutte le altre denunce dei nostri ascoltatori rimane con noi l'avvocato Ferrari. E intanto abbiamo Angelo che ci chiama da Taranto e Omar da Milano. Angelo, buongiorno. Ah, Angelo. Sì, buongiorno. Eccoci buongiorno. A lei. Sta bene? Sì. Mi sente bene? Benissimo. Perché noi cerchiamo insomma di capire come si può disattivare il contratto telefonico, ma vogliamo attivare il nostro udito, se no il telefono come facciamo a usarlo? Angelo, ci dica. Angelo, ci racconti cosa le è successo. Allora, gennaio di quest'anno, scorso, gennaio-febbraio, non ricordo bene il giorno. Ma vabbè, inizio 2013. Per quanto riguardava Telecom, io avevo Telecom come gestore, praticamente per risparmiare ho chiesto a vari gestori, come Wind, che mi ha detto: guardi, verificato, non c'è linea, non possiamo fare il contratto. Ok, perfetto. E dove è andato a finire, Angelo? Così andiamo un po' al sodo. Dopodiché Vodafone, loro senza nessuna cosa mi fanno il contratto senza verificare il campo, niente. E per cui non è andato bene? Ha disdetto tutto e è tornato con Telecom. Angelo, dobbiamo sintetizzare: quanto le è costato tutto questo scherzetto? Allora, fino adesso mi stanno ancora mandando da pagare cose che io non ho mai fatto, né una chiamata, né una telefonata, né nessuna cosa. Perché il tema è pure questo. Sentiamo l'avvocato Ferrari. Esatto, tra le altre cose, a parte i costi di disattivazione, per la verità, nel passaggio da un operatore ad un altro si apre tutta un'altra rosa di problematiche, avvocato. Certo, la prima, quella diciamo più fastidiosa, è quando, come nel caso dell'ascoltatore sentito prima, ci sono dei problemi del passaggio da un operatore all'altro, si verifica in taluni casi il brutto caso di perdere il proprio numero telefonico, perché se viene staccato non è più riattivabile, e questo è una cosa molto problematica per tutti, perché insomma si è conosciuti con un certo numero telefonico, per un altro è un bel problema. E quest'altro invece che non ha chiesto appunto ad un operatore, hanno verificato che non ha copertura, ma è stato sotto, mentre l'operatore precedente in maniera molto trasparente aveva detto: a noi non conviene fare un contratto con te perché lì tanto tu non potresti utilizzarci. Il secondo se ne è veramente guardato da dare questa informazione, non ha voluto dire un'altra parola e è andato dritto per la sua strada. Qua che cosa può fare l'ascoltatore? ma quando ci sono questo tipo di controversie, o rivolgersi alle associazioni di consumatori che hanno dei, si chiamano protocolli di conciliazione, degli accordi per definire controversie con i principali operatori telefonici, o andare al Corecom della sua regione, che è un organo proprio dell'Agicom che si occupa di risolvere queste controversie. E ci hanno per esempio raccontato che ne risolvono veramente centinaia e centinaia di queste controversie, che comunque continuano a proliferare, e qua ci fanno perdere un sacco di tempo, Nicoletta mia. Intanto noi chiediamo ai nostri ascoltatori di attivarsi, di comporre il nostro numero verde 800 24 00 24 e dirci che cosa vogliono fare, se disattivare il contratto telefonico o attivare il loro udito, che sarebbe anche una bella cosa. Omar, buongiorno, ci chiama da Milano. Sì, pronto, buongiorno a lei e al suo interlocutore. Sì, non so se possono nominare anche le operatore. Ma guardi, l'abbiamo detti tutti quanti, quindi vada tranquillo ormai. Tanto poi le telefonate degli uffici stampa me le becco io oggi pomeriggio. Non si ce l'ho con Fastweb. Eccola là. Due anni fa avevo un contratto che è tutto casa, internet e mobili. Sì. E poi dopo un anno di contratto mi hanno fatto una proposta, nel senso una prova di due mesi di un terrestre. Ecco, se lei doveva dire che entro questi due mesi ritornava la situazione precedente, altrimenti andava avanti il nuovo contratto. Va bene per me il terrestre, no, tutto gratis, offerto in senso la prova gratis, tutto. Poi io dopo ho trovato un altro operatore, io ho problema a recuperare 100 euro di cauzioni, questo è il problema. Poi dopo mi è arrivato, quando ho fatto la disdetta con Fastweb, ho fatto con un altro operatore, mi è arrivata l'ultima bolletta. Nell'ultima bolletta ho trovato che c'erano le spese di questa cosa qui del terrestre. Poi ho fatto un sollecito, ho mandato un fax. Insomma, di lì è iniziato, guardi Omar, esatto, la sintesi è che quando si prova a cambiare oppure quando si aderisce ad una nuova proposta non si sa mai dove andiamo a finire qua, bisogna fare un lavorone, insomma, vedi, perché ecco, io non cambio, bisogna sentirci bene e noi tanto continueremo con i consigli dell'avvocato Ferrari a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Arrivano dei messaggi di fuoco e penso sì, perché, agli uffici stampa, perché, come... esatto, perché questi 35 euro un solo ascoltatore ci ha raccontato di averle pagate per disattivare l'abbonamento, per tutti gli altri sono botte da 70, 80, 100 e c'è chi ci scrive anche 200 euro, per cui avvocato Ferrari, qua altro che la petizione. Qua la petizione è proprio per eliminarli, perché poi io capisco che l'autorità nei limiti in cui si può muovere cosa fa, va, analizza i costi, però mi chiedo, dopo che uno è cliente da anni di una compagnia telefonica, bravo, che si è arricchita con questo contratto, comunque è un'attività imprenditoriale che genera costi ma genera anche introiti, io non vedo perché arrivati alla chiusura si debba analizzare radiograficamente i costi che ha il singolo per disattivare. Vedete che la sento tanto bene. Bravo, infatti adesso lo ripeschiamo il collegamento, ma possiamo fare qualcosa di più. Certo, oggi noi cercheremo di capire come fare per non disattivare il nostro udito. La compagnia telefonica passi, ma il nostro udito dobbiamo attivarlo e mantenerlo attivo a lungo. Se noi avvertiamo dei ronzii, delle sensazioni di orecchio pieno, ma anche un'ipersensibilità ai suoni, se abbiamo un po' di difficoltà a capire tutte le parole di un discorso, perché i segnali possono essere tanti, chiamateci subito all'800 24 00 24. Intanto lasciami salutare l'ospite, che è in linea con noi, è il dottor Sandro Burdo, medico, audiologo, consulente all'ospedale Buzzi di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lei ci sente bene? Non è una battuta, perché il nostro udito cambia se abbiamo in mano una cornetta o un cellulare, così? È proprio così, perché il telefono filtra la voce e quello che noi sentiamo non è la voce naturale, perché per una questione tecnologica dobbiamo amputare le frequenze gravi e parte delle frequenze acute, per quello che la voce certe volte al telefono sembra un po' stridula. Allora, noi che ci sentiamo bene, togliere questi monconi di frequenze non ci costa nulla. Una persona che ha anche un modesto deficit di udito, 1+1=3 in questi casi, e quindi al telefono ha delle difficoltà sicuramente maggiori rispetto alle nostre. Quindi, è un test dell'udito. Ecco, e questo volevo chiederle, dottor Burdo, ne parleremo subito dopo i mercati. Noi possiamo usare il telefono, il cellulare come una sorta di test, quindi per il nostro udito, un'autodiagnosi che non sostituisce naturalmente mai quella del medico, ma cosa possiamo chiedere ai nostri ascoltatori? Ma guardi, le porto un'esperienza proprio che non è, che è molto frequente. I bambini che soffrono di parotite, per il 5% purtroppo diventano sordi in un orecchio. Diventare sordo in un orecchio non crea un grave problema di comunicazione. Sì. Tant'è che le mamme se ne accorgono perché spostano la cornetta dall'orecchio all'altro, cioè l'orecchio diventato sordo all'orecchio udente. Certo. E nella maggior parte dei casi questo è il sintomo di una avvenuta sordità in un orecchio. E siamo tornati insieme a Cuore Denari, mm-hmm. La donna di Denari oggi disattiva. E la donna di cuore attiva. Ecco, esatto. Io disattivo con dolore, però, perché meno di 100 euro qua non me la cavo. E tu? E io invece attivo, mi faccio aiutare dal dottor Sandro Burdo, medico audiologo e consulente all'ospedale Buzzi di Milano, perché vogliamo mantenere il nostro udito attivo, efficiente, efficace, vogliamo cogliere tutti i segnali che ci arrivano, perché dottor Burdo, le orecchie sono un po' la porta del cervello, è così? Sono la porta d'ingresso del cervello e questo è un concetto che molti dimenticano. Non solo, attenzione, l'udito serve anche per la sopravvivenza. Basta riflettere sul fatto che quando andiamo a dormire l'unico senso che non spegniamo è l'udito. Lei capisce l'importanza di questo organo di senso, che non è solo quello di ascoltare con piacere la musica, è proprio quello di, come si può dire, maturare le proprie capacità cognitive di pensiero. Noi pensiamo con le parole, non con gli oggetti della vista. Dottore, io e Nicoletta siamo sempre con le cuffie e anche un po' altine, almeno io. Nicoletta è un po' più morigerata anche in questa abitudine. Corriamo dei pericoli? Allora, il rumore deve avere determinate caratteristiche per essere lesivo. Questo da una parte, dall'altra bisogna essere predisposti a diventare sordi per il rumore. Queste sono le due variabili fondamentali. Non lo sei. Se ancora non ci siamo diventate, diciamo che possiamo tranquillizzarci. 800 24 00 24, parliamo di udito, parliamo dell'udito, se cambia quando parliamo al telefono, quel telefono che proprio oggi vi invitiamo, indichiamo come fare a disattivare. Certo che, mamma mia, Deborah, siamo contorte. A tra poco. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta Essere e Benessere. C'è una torta fatta in casa dalla mamma ed una bottiglia di vino. Mentre io passando nel bosco ti ho raccolto un mazzo di fiori. Guarda, ti piacciono? Grazie infinite, nipotina, che pensiero gentile. Oh, santo cielo, che orecchie grandi hai, nonnina. Io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara. Servono per sentirti meglio quando mi parli. Aveva ragione il lupo, perché anche le dimensioni contano. Parliamo di orecchie, naturalmente. Dottor Burdo? Che maliziosa stamattina. Deborah ride? Ma è vero che chi ha le orecchie grandi sente meglio? Eh certo, il padiglione funziona come un radar in realtà, quindi più il radar è grande, meglio si percepiscono i suoni. Questa è la funzione del padiglione. Ma oltre alle dimensioni, sembra che sull'efficienza pesino anche gli anni. Stiamo sempre parlando di udito. Siamo un po' rassegnato. Sei un po' borderline però, dottor oggi, Burdo, all'idea sì, che... Però. No, sì, il dottor Burdo ride, ma io sto parlando di udito, dottor Burdo. Sì, il dottor Burdo fa mica, non so, l'urologo. Io non ho detto niente, sei tu che ti stai infilando in questo tunnel. No, non è un tunnel, anzi mi fa piacere, perché è appena uscito un lavoro molto interessante sulla correlazione tra perdita di udito ed efficienza, chiamiamola sessuale. È lì che volevo andare. Soprattutto sul maschio. E c'è una netta correlazione, ma è evidente quello che vi dicevo prima. L'udito, innanzitutto, noi lo usiamo come uno strumento di sopravvivenza animale. Lei capisce che l'abilità riproduttiva è strettamente correlata a questo aspetto. Quindi chi ha una perdita di udito... può essere, ripeto, è appena uscito un lavoro molto interessante di una scuola turca su questo argomento, che evidenzia la correlazione tra sordità ed efficienza. Così come c'è una netta correlazione tra demenza e perdita udito. Quindi tra l'udito e il declino cognitivo. Un declino cognitivo, attenzione, che non significa che i dementi siano sordi, significa che essere un po' sordi favorisce l'insorgenza della demenza. Allora direi che oggi è il caso di attivarsi, di chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24 per capire come mantenere il nostro udito in buona salute, come mantenerlo a lungo, perché dottor Burdo, noi siamo un po' rassegnati che con il tempo, con gli anni, il nostro udito perda colpi. In realtà questo potrebbe essere evitato. Sì, Allora, intanto anche qui c'è un po' di pregiudizio sul senectus ipsa morbus, sempre comunque, per cui diventando anziani ci capitano tutti i mali di questo mondo. In realtà anche qui c'è una predisposizione genetica, ovvero ci sono delle famiglie che invecchiando diventano sorde e altri che invece per altri invece questo non succede. Però ovviamente la sordità è favorita da agenti nocivi. Gli agenti nocivi sono fondamentalmente il rumore, l'abbiamo detto prima, alcuni farmaci ototossici che però ormai sono in disuso, cioè i farmaci soprattutto nella gentamicina piuttosto che questi farmaci particolarmente, come si può dire, importanti per il trattamento di malattie molto gravi come la tubercolosi piuttosto che malattie di questo genere non vengono quasi più usati. Sì. Cioè, sì, posso leggere un sms molto carino? Ho un trauma acustico bilaterale, fa male sentire la radio con l'auricolare? Spero di no, non potrei ascoltarvi più, care piccole diavolette, un abbraccio, Bracciola. E con questo, dottor sì, Burdo. Io a Bracciola rispondo che se uno ha mal di denti si dà le martellate, è chiaro che fa ancora più male. Ah. Quindi l'auricolare non è... No, sto dicendo non tanto l'auricolare, quanto sentire i suoni particolarmente intensi. E l'auricolare è alta, attenzione, se uno è un po' sordo automaticamente gli viene spontaneo aumentare il volume. Per capire se il volume è eccessivo non fidiamoci delle nostre orecchie, chiediamo agli altri se sentono la nostra musica. Se gli altri sentono la nostra musica vuol dire che è troppo forte. Hai capito? Io, dottor Burdo, ho letto oggi sul Corriere insieme a Deborah un bellissimo articolo, l'apparecchio per sentire solo ciò che vuoi, è praticamente una protesi acustica intelligente che seleziona, che viene data non solo alle persone che hanno problemi di udito, ma l'inventore ha proprio invece pensato alle persone che ci sentono bene ma che magari hanno difficoltà ad ascoltare l'interlocutore in luoghi particolarmente affollati. Ad esempio vai al ristorante, sì, ti porta per lavoro e c'è molto brusio intorno e tu con questa piccola protesi riesci solamente a cogliere un po', ad isolarti. Brava, come isolarti? Io ho detto al dottor Burdo, questa doveva inventarla lei, ma sai cosa mi ha detto il dottor Burdo? Che è già tutto fatto, vero dottore? Beh sì, non sono novità, ogni tanto i californiani fanno dell'ottimo marketing, l'azienda che produce questa protesi ne ha combinato una grossa perché ha fatto copiare dai cinesi un impianto cocleare australiano, proprio pari compresi i dépliants, il che lascia un po' perplessi. Tenga presente che questa tecnologia non esiste da anni, ma da un paio d'anni sì. Sì. Noi la usiamo, non dico quotidianamente perché solo in casi molto selezionati, però la usiamo ed è molto efficace ed efficiente. Bisogna distinguere due tipologie di, chiamiamole, utenti, ovvero il manager che vuole ascoltare o origliare quello che dicono gli altri. A me è capitato un paio di manager che mi ha chiesto questo servizio, quindi una specie di micro. E lei l'ha accontentati? No, perché che domanda. Diamine. Appunto, però me l'hanno chiesto. Sì. Cosa ci tocca sentire, dottor Burdo? Già, per rimanere in linea con la trasmissione. E il secondo invece sono patologie molto rare, ma non rarissime, che colpiscono soprattutto i bambini e sono l'equivalente della dislessia per l'orecchio, cioè sono bambini che ci sentono molto bene ma non riescono a capire soprattutto nel rumore. In altre parole, il rumore per loro pesa 3 o 4 volte quello che pesa per noi. Sì. E con queste piccole protesi riescono praticamente a pulire il suono. Questo è straordinario, ma ci sono anche delle altre novità che ci racconterà il dottor Burdo. Dottor Burdo, lei lo sa che a grande richiesta i nostri ascoltatori vogliono sentire novità sugli acufeni, ci sono. E tra l'altro un ascoltatore, proprio ispirandosi a quanto lei ci raccontava di questa sorta di protesi che separa i rumori dai suoni, ci chiedeva se potesse essere un'idea per in qualche modo ovattare un po' gli acufeni. Vado come un uomo, sono complicato, passo la mia lingua sul taglio nel palato, non mi lascio stare a modo mio, a modo mio. E poi vivere a vecchio senza rinforzare. Cuore Denari non fa mica male per così allietare un po' i nostri ascoltatori. Con assolutamente. I nostri dottor Burdo, Federico è molto. Sì. Allora, Federico in sostanza ci chiede: con quella tecnologia, quella di cui parla lei, dottor Burdo, il microchip, riesco anche ad escludere mia suocera oltre che il rumore? Non so perché, ma le suocere escono in ogni trasmissione, qualunque tema noi affrontiamo, poverette, ci vanno a finire in mezzo. Dottor Burdo. Beh, la suocera va soppressa, la suocera. No, non rida, ma la suocera va soppressa. Questo nostro medico è indisciplinato stamattina. Allora noi adesso liberiamo gli ascoltatori che ci stanno chiamando all'800240024. No, tra l'altro il dottor Burdo, lo sai che si fa solo sentire ma non si è mai fatto vedere. E si vede che è molto affascinante, quindi... Chi prendiamo? Martino, Danilo? Martino che aspetta da un po', tra Martino, l'altro. Buongiorno. Poi torniamo anche all'avvocato Ferrari, perché si starà stradivertendo anche lui al telefono. Martino. Eccoci. Sì. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io volevo dire la mia. Oltre all'acufene che ho adesso in tutte e due orecchie, io quando parlo al telefono mi capita, ad esempio io l'appoggio sull'orecchio destro, e mi ribomba, ma si muove proprio, sento il timpano dal lato sinistro che mi vibra. Veramente? C'è una corrispondenza, quindi... Come se avesse un qualcosa di... Un legame, un filo che li lega, quindi appoggiando il telefono... Va bene, sentiamo dal dottor Burdo. Dottor Burdo, se appoggia il telefono in un orecchio vibra l'altro, è possibile? O è un'impressione? No, può anche essere, perché all'interno dell'orecchio ci sono dei muscoletti, uno si chiama stabilio, l'altro tensore del timpano, che funzionano come i muscoli che mettono a fuoco la vista. Allora... questi due muscoletti all'interno dell'orecchio mettono a fuoco i suoni e li sentiamo meglio. Io penso, allora, nel 90% dei casi chi ha un acufene ha anche un problema di udito, o meglio, chi ha un problema di udito ha anche un acufene, così è più corretto, perché l'acufene è una conseguenza della perdita di udito, non è la causa della perdita di udito. Ed è questo in realtà da dichiarare. Ora, il paziente, se ha questi acufeni, molto probabilmente deve mettere a fuoco agli acufeni, perché suppongo io sia un po' sordo, deve concentrarsi di più, e quindi può essere che questi muscoli vadano in clono, questi muscoletti, e quindi senta vibrare il timpano, perché sono collegati al timpano ovviamente. Quindi comunque lei ha aperto, dottor Burdo, dicendo che l'udito, io mi sono limitata a dire che era la porta d'ingresso del cervello, lei e le orecchie, lei ha detto che l'udito in qualche modo ha un legame con l'efficienza sessuale e anche la prestazione mentale e intellettuale. Io direi che è meglio tenerlo da conto, quindi le persone che avvertono in questo momento dei disagi, ronzii, fischi, ma anche la sensazione di orecchio tappato, ci sono ascoltatori. La tentazione di andare sempre ad aumentare i volumi. Ecco, allora è meglio farsi fare una visita, per poi magari scoprire che dietro tutto questo disagio c'è banalmente un tappo di cerume. Questo, cioè, può vogliamo essere, rischiare però... tutto questo per un tappo di cerume? Ma ci non sia chiedendo. Mai, ma stiamo scherzando. Dottor Burdo, lei se che no mi dove dice? Lo mettiamo il microchip? Prima del tappo di cerume, però, io vorrei lanciare un appello. Sì. Per i giovani adulti, soprattutto maschi, che hanno un problema dell'udito, sì, parlo giovani adulti 40-50 anni, che non fanno outing, cioè questi non dichiarano di essere sordi. Come non, la prostata, non dottor Burdo, lo sa che anche quel problemino lì non lo vogliono mica confessare? È micidiale questa cosa. No, perché c'è una viene sempre correlato alle prestazioni sessuali, ed è vero, se lei ci pensa... lo considerano uno stigma negativo essere un po' sordi, segno di vecchiaia piuttosto che, ma è una cosa insomma, allora, un po' infantile, ecco, che va superata. Questi pazienti poi perdono l'abilità d'ascolto e il loro cervello non è più in grado di sentire, poi peggiorano man mano negli anni, quando diventano anziani proprio sono costretti a mettere le protesi, a effettuare qualsiasi terapia, ma il loro cervello non è più in grado di ascoltare, perché hanno perso l'abitudine, non sanno farlo, ha capito cosa voglio dire? Assolutamente. Ecco perché va fatto tutto molto precocemente a quell'età, Tra i 40 e i 50 anni, dottor Burdo, parliamo sempre dei controlli, ci controlliamo la pressione, controlliamo il colesterolo, controlliamo la vista, quindi dovremmo anche controllare il nostro dito, un tagliando ogni tanto, quindi l'età ideale per farlo è tra i 40 e i 50 anni, anche se uno non è un maschio. Anche se uno non è maschio, ma anche se i maschi sono più frequentemente colpiti dalla sordità dalle femmine. Va bene, il, come dire, il passaggio l'ho avvertito chiaramente. Certo. Avvocato Ferrari, lei l'ha controllato l'udito? No, tra l'altro l'avvocato Ferrari, stavo immaginandomelo, con tutte le lamentele dei consumatori che deve sentire, avrà due orecchie così, avvocato? Adesso abbastanza. A parte gli scherzi, però insomma anche quello è un lavoro bello impegnativo che richiede capacità di ascolto non indifferente. Io mi trovo nell'età giusto tra i 40 e i 50 che ci si trova al dottore, per cui andrò a farmi visitare. Benissimo, hai visto consiglio. Che già abbiamo raggiunto il risultato oggi. Tornando invece al tema per il quale l'abbiamo chiamata, avvocato Ferrari, cioè quanto ci costa cambiare operatore telefonico e soprattutto oggi stiamo, come dire, girando il coltello nella piaga del costo di disattivazione. Sentiamo un altro ascoltatore, magari se non riusciamo a rispondere andiamo poi alla seconda parte del programma perché anche Cesare da Trieste aspettava da un pochino. Cesare? Ci sono ancora, nonostante la ottimo, stessa. Grazie. Quindi hai visto come ha risposto al volo? Quindi Cesare sente benissimo. Cesare ci dica. Sì, vabbè, in realtà non è vero nemmeno questo, quindi anch'io andrò a farmi controllare. Ma la domanda di oggi riguardava un'altra cosa, cioè riguardava il... Può cogliere, può prendere due piccioni con una fava, come si dice. Siamo due signori piccioni qua. Tordi. La domanda su cui ero prima, dopo eventualmente mi apprezzerò anche là, il resto. L'ospite precedente, quello che poi ha chiuso, aveva parlato dei tempi di disattivazione. Sì. I tempi di disattivazione a un certo punto vengono comunicati tanto all'utente quanto tra un operatore e l'altro e viene comunicata una data. Questa data qui è poi certa oppure uno rischia... Qual è la data che fa fede, Cesare, in tutto questo procedimento? Perché se non mi ricordo male, prima del grosso ha parlato, diciamo, nel migliore dei mondi di 10-13 giorni di chiusura di un rapporto. Al massimo possiamo arrivare a 30. Parlavamo di un ascoltatore che invece dal 2 ottobre che è in ballo in una situazione senza fine. Avvocato Ferrari, rapidamente, poi andiamo al GR e poi alla seconda parte del programma. Ha un'indicazione per Cesare? I tempi sono quelli che ha detto giusto il dottor Del Grosso, poi bisogna vedere se vengono rispettati. Se non vengono rispettati ci sono degli indennizi, oltre ovviamente alla possibilità anche a chiedere ulteriori danni, soprattutto per le imprese. No, ma Cesare proprio andava precisamente a chiedere qual è la data che far fede, la data in cui io parto con la mia prima richiesta all'operatore e voglio... Immagino che poi tra l'altro il primo contatto sia con la nuova azienda con la quale si vuole sottoscrivere il contratto, che a sua volta deve dialogare con la prima, quindi certo. Quando è che parte il rapporto? Teoricamente da quando si conclude o telefonicamente o presso un esercizio commerciale il nuovo contratto, quindi da lì poi possono, quindi immagino che a Cesare possiamo dare questa indicazione. Abbiamo poi Antonio da Monza, ma direi che a questo punto possiamo trasferirlo, se poverino, oppure glielo faccio fare. No, c'è tempo. Facciamo fare la domanda e rispondiamo dopo. Possiamo sentirlo e tornare poi a parlare dei nostri problemi di udito, perché dottor Burdo, ci sono tutti i nostri ascoltatori. Cosa chiedono? Sono più i maschi, come si dice, che stanno facendo coming out. Ecco, che dicono no, vado a controllarmi. Hai visto stamattina chissà come che, li abbiamo... Ecco, su che cosa ha fatto scattare il click, se il declino cognitivo l'efficienza sessuale. No, perché quando tu gli dici che un problema di salute è apparentemente completamente scollegato da quello centrale, quello che loro reputano il centrale, immediatamente ovviamente scatta l'allarme. Ma il dottor Burdo sa come attivare i suoi polli. Vabbè. Andiamo. Antonio da Monza deve fare una domanda in 20 secondi. Buongiorno a tutti, sarò molto breve. Forza. Allora, io vi dico fast web, mi confermano la disdetta, c'è da dare indietro il modem che è di loro proprietà, glielo do indietro. Se non viene dato il tempo c'è una multa da pagare, vabbè, ok. Riapro il contratto dopo qualche mese. C'era la multa. No, compreso di modem, mi è arrivato dopo 6 mesi. Ho diritto di avere qualche rimborso per questa cosa? Non ho capito però che cosa è successo, Antonio. Guardi, la ripeschiamo dopo così faccio un po' di chiarezza. Andiamo a sentire il nostro GR, ritorniamo qui con tutte le vostre telefonate e i nostri esperti a tra poco. Chi è? Orecchio. C'è un po' di cerume dentro orecchio, non c'è sede. Bene, vediamo un po'. Ammazzo, chiami cerume, questo è fango, tu sei sordo. Dottor, ma orecchio mica è questo, è quest'altro. Dici? Vediamo. Dai, è peggio, lavaggio. Lavaggio? Col sapone. Per chi si fosse perso la prima parte del programma, abbiamo ben riassunto il tema di cui stiamo parlando questa mattina. Dottor Burdo, a volte basta proprio un tappo di cerume ad abbassare il nostro dito, a disturbarlo. Sì, e può dare anche un fastidio abbastanza importante, pruritico, cose varie, ma soprattutto il cerume funziona come i fagioli. Se lei fa la doccia e ha un tappo di cerume, si gonfia e uno dice: accidenti, sono diventato sordo. In realtà si è gonfiato il tappo di cerume. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna farlo togliere, perché al di là del fastidio può essere ricettacolo di batteri, di germi, una serie di cose che non vanno bene, quindi produrre del dolore e un'otite esterna. Difatti alcune otite esterne dei bambini sono causate da un tappo di cerume che è stato infettato in bagni in acque non particolarmente pulite. Pulite, certo. Ma, quindi, insomma, Silvia, che cerca di evitare che si formi il tappo il fagiolo, che si gonfi il fagiolo nell'orecchio, diciamo. Ci scrive: perché quando mi pulisco l'orecchio sinistro, specifica, con il cotton fioc, sempre mi viene la tosse? Dottor Burdo, questa lei non saprà rispondere. Questa lei non la sa. Io invece la so. Allora, sa anche questa. Fantastico. Sì, il condotto uditivo esterno è innervato dal nervo vago, che è quello che fa venire la tosse. Per cui se ha dei ramuscoli nervosi un po' superficiali, col cotton fioc, che la signora non deve usare. Deborah, non deve usare. Qui abbiamo avuto un gran dibattito, dottor Burdo, a microfoni spenti, per la verità, su questo argomento. Non deve usare, ecco, va a stimolare questi ramuscoli e quindi provoca la tosse. Ma mi scusi, ma chi se li ha inventati allora, se adesso la medicina dice che non dobbiamo usarli? No, ferma lì. Poi c'è sempre l'uso e l'abuso delle cose. Il cotton fioc è nato per pulire la parte di cerume che fuoriesce al mattino. Ricordiamoci che all'interno del condotto uditivo esterno, quindi nel canale dove noi ci fichiamo dentro il mignolo, ci sono dei... Non si dovrebbe però, no, dottor Burdo? Anche no? Soprattutto pubblicamente, ecco. Si fa in macchina la mattina andando in ufficio, il mondo è pieno di questi che si infilano il mignolo. I mignolatori, va bene, ok. Allora, ci sono questi peletti che buttano fuori il cerume, perché il cerume che noi troviamo oggi al mattino è quello che l'altro giorno era in fondo al condotto. Quando noi usiamo il cotton fioc, rimandiamo indietro il cerume, per quello che si creano i tappi di cerume. Il cotton fioc è nato per prelevare la parte che esce dal condotto, non la parte interna. E si pulisce. Così come una volta si faceva, le nonne lo facevano con l'angolino del fazzoletto, non di carta, ma di tessuto che avevamo, anche le mamme, di lino, di cotone, erano bellissimi. E allora si puliva la parte esterna, questa è la funzione. Poi ricordiamoci che il cerume non è una sostanza negativa, è positiva, perché serve a una serie di funzioni, innanzitutto è come la carta moschicida, perché possono entrare degli insetti e il cerume, essendo colloso, gommoso, arresta. Li intrappola. Ecco. Continuiamo con queste descrizioni, che siamo quasi all'ora di pranzo, dottor Burdo. Però, perché a Deborah ha un'avversione per il cerume, invece meno male che c'è. E meno male che c'è anche l'avvocato Ferrari, perché ci sono i nostri, perché che non vorrei paragonarla al cerume. No, assolutamente. Però noi siamo arrivati al dottor Burdo passando dall'avvocato Giovanni Ferrari, che questa mattina ci ha spiegato come possiamo fare, ancora poco per la verità, per difenderci da quelle compagnie telefoniche, tutte, che quando vogliamo andarcene da loro praticamente ci appioppano questi costi di disattivazione che secondo l'autorità non superano, l'autorità garante delle comunicazioni, non superano i 35-40 euro. E qua ci è arrivata una valanga di testimonianza da parte dei nostri ascoltatori che i costi sono ben superiori. E allora la Casa del Consumatore ha attivato, avvocato Ferrari, lo ricordiamo, questa petizione per cancellare questo balzello, perché voi lo chiamate proprio così. Come possiamo fare per darvi una mano, per aderire alla petizione, per fare in modo che siate tanti, e poi dove la portate? Allora, intanto vi racconto come mi è nata l'idea. Io ero a Bruxelles, mi confrontavo con un'associazione di consumatori del Portogallo, loro mi hanno detto che hanno fatto un'iniziativa del genere in Portogallo e sono riusciti a farli abolire questi costi di disattivazione. Hanno raccolto 10.000 firme, le hanno portate al governo e all'autorità, e hanno detto la popolazione chiede, è un problema sentito, dovete abolire. E diciamo che poi tra l'altro in Portogallo anche l'entità forse della crisi economica ha reso un po' più sensibili i politici, il governo intorno anche a questo problema, che potrebbe essere, come dire, anche considerato un po' marginale rispetto ai tanti altri, ma in realtà quando anche questo carica sulle famiglie è bene che tutti ce ne rendiamo conto. Detto questo, quindi siete partiti sulla base di questa idea, dove andrete con questa petizione? Allora, noi l'idea, come abbiamo detto, è quella di far introdurre nella legge sulla concorrenza, che il governo dovrebbe fare ogni anno, perché questo è il tema giusto, perché ovviamente questo pagamento è una barriera, come si diceva sin dall'inizio della trasmissione, al passaggio tranquillo, senza costi, da un operatore all'altro, e quindi impedisce la concorrenza di fatto, perché tutti tendono a rimanere presso l'operatore in cui sono, oppure poi si trovano questa bolletta di chiusura che proprio non si aspettavano, che è una fregatura. Allora abbiamo lanciato questa petizione, abbiamo già raccolto tra internet e le nostre sedi un migliaio di adesioni, per cui in pochi giorni devo dire c'è stato molto seguito, e invito tutti gli ascoltatori cortesemente a darci la loro firma, ne abbiamo bisogno, anche perché ovviamente andiamo più rappresentativi se portiamo delle firme. Si può fare andando sul nostro sito www.casadelconsumatore.it, si inseriscono i propri dati, viene generato automaticamente un PDF da firmare e mandarci via fax, via posta, benissimo, via mail, come si vuole. Ci può già dire quante ne avete raccolte? Siete partiti da pochissimo, non so, così ne abbiamo raccolte online 540 e presso le nostre sedi più o meno un numero analogo, quindi perfetto. Siamo un migliaio, però insomma bisogna essere molti di più. Senta, rapidamente, anche se non l'abbiamo capita bene, la domanda che ci ha fatto l'ascoltatore della parte precedente: Fastweb ha disattivato l'abbonamento, ha chiuso l'abbonamento, doveva restituire il modem, va fatta questa operazione entro un tot di tempo, giustamente, perché anche le aziende vanno rispettate nei tempi che chiedono. Su questa vicenda ha qualche cosa da aggiungere, avvocato? Ma io a quanto avevo capito, poi lui ci aveva ripensato, però non gli hanno mandato il modem per lungo tempo. Perfetto, io invece ho perso questo passaggio. Mi sembrava. Non hai sentito così bene. Non ho sentito bene, infatti ero distratta, perché qualche volta anche quella contribuisce a non trasmetterci messaggi chiari. Quindi avvocato, ecco, quindi in questo quando caso viene ritardata l'attivazione di un servizio, si ha diritto a un indennizzo di 7,50 € al giorno. Ah, ecco, quindi allora speriamo che l'ascoltatore abbia sentito bene 7,50 €. Al giorno, insomma, se sono una decina di giorni di ritardo, cominciamo a parlare già di oltre 70 €. Ritorniamo al nostro udito. Peraltro, udito e telefono, e uso smodato del telefono. Tu che ce ne hai sempre due in mano di telefoni. Ma non è vero, dottor Burdo. Dottor non Burdo, è vero. Come no? È vero, è vero. E adesso chiamo Laura Vanossi a testimoniare. Ci sono state delle illazioni sugli effetti negativi del telefono sul cervello, piuttosto che sull'udito, piuttosto che dei cellulari. In realtà non è mai stato assolutamente dimostrato un qualcosa di questo genere. Tenga presente che il cellulare è una tecnologia nuova, e quando c'è qualche novità c'è sempre qualcuno che tira fuori l'effetto negativo e ne evidenzia possibili malefici, perché siamo nel campo della stregoneria. In realtà questo non è mai stato provato veramente, quindi tenga presente che chi si è occupato di queste cose sono laboratori di altissima ricerca, per esempio il nostro CNR qui a Milano, al quale tra l'altro abbiamo discusso noi più volte qualche anno fa, ha fatto un'analisi molto importante sui campi elettromagnetici prodotti dai cellulari e non ha rilevato nulla di particolare, insomma. Fosca, allunga di 7-8 centimetri il passo perché non si allunissono col mio. Ma il vestito è stretto. Ti prego, fai qualcosa. Oh, pardon. Sì? Buongiorno, non mi disturba affatto, mi dica. Lascia che arrivi quel momento stanotte e io ti assicuro che ti faccio toccare il cielo con un dito. Scusa un attimo. Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. L'eterno riposo, don Alleo, signore, risplende ad essa la luce perpetua, riposo in pace, amen. L'eterno riposo, don Alleo, signore, risplende ad essa la luce perpetua, riposo. Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. È diventato il nostro compagno di vita il cellulare. Un'azienda leader in questo campo ha commissionato uno studio per valutare le abitudini dei suoi clienti, da cui è emerso che ognuno di noi controlla il cellulare almeno, quanto diresti 150 volte al giorno. Io avrei detto di più, perché io lo faccio molto di più. Sono dottor Burdo, lei quanto avrebbe detto? Quante volte secondo lei tocchiamo il cellulare? Almeno, almeno un centinaio, sì, secondo me. Infatti il numero giusto era 150, vero Debora? Eh sì, infatti, e in queste 150 volte non ci si riferisce solo a chi è dotato di smartphone e di applicazioni, quindi le tecnologie più nuove, più moderne, ma anche a chi ha come telefono un modello di vecchia generazione. E Nicoletta, devi sapere che l'utente medio fa in media 3 telefonate al giorno, ne riceve altrettante, mentre invia una ventina di SMS. Però mandare gli SMS all'udito non dovrebbe provocare problemi. Poi ci sono le chiamate che partono per sbaglio e lì sono dolori. Altro che costi di disattivazione. Dottor Burdo, intanto voglio dirle che ha una nostra ascoltatrice ci ringrazia, è Stefania, ci scrive dal cellulare del marito e ci dice: meno male che ci siete, ma estendo questa cosa anche a lei, perché ci racconta che il marito è sordo, non lo ammette, ma dopo che ci ha sentito le ha promesso che andrà dall'otorino. Allora, quali sono i controlli da fare, dottor Burdo? Almeno quelli basic. Sì, no, banale esame audiometrico, un banale esame di 10 minuti si risolve, cioè si riesce a capire se si hanno dei problemi. Poi ripeto, ci sono delle patologie rare, ma non andiamo sul difficile, dove si sente bene ma non si capisce, ma queste sono rarissime. 99% dei casi basta fare un esame dell'udito. Ecco, ci sono un po' dei campanelli d'allarme che dovrebbero suonare e invitarci a fare questo controllo, li abbiamo detti nel corso della trasmissione, vogliamo ripetere? Sì, i campanelli d'allarme sono non capire nel rumore, attenzione, in questo momento il più efficace è capire poco la televisione, perché la televisione è un bel banco di prova, soprattutto con i film, quelli stranieri doppiati. Chi capisce poco la televisione, invece di alzare il volume o di mettersi solo le cuffie, è meglio che faccia un esame dell'udito. Ecco, poi gli acufeni sono un segnale d'allarme, perché spesso l'udito si deteriora gradualmente, progressivamente, non ci si accorge di diventare sordi, mentre l'acufene dà fastidio e quindi si pensa di avere gli acufeni. In realtà si è diventati sordi. Chi ha gli acufeni deve farsi vedere e gestire la sordità. Tra l'altro, posso chiedere che cos'è l'acufene in esattezza? Suono, ecco, perché io ne sento molto parlare. È un suono che non esiste in natura, che si autoproduce dal nostro udito, per cui è una cosa molto particolare. Li abbiamo descritti come ronzii, fischi, ruscellini, abbiamo la sensazione di un ruscello, sono tutti questi suoni che vengono chiamati con una parola sola, che è acufene. Credo li abbia la nostra Luciana dalla provincia di Vicenza. Andiamo? Luciana, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho sempre prurito nel condotto uditivo e in gola e ho il reflusso gastrico perché ho l'ernia diatale, questo da tanti anni. E volevo sapere se sono in comunicazione e poi cioè come mi gratto in gola e gratto anche il condotto e poi se appoggio l'orecchio sento... mi fa male come... Insomma, è molto, mi sembra che la situazione che descrive Luciana è una, ci dà un quadro che, dottor Burdo, è tutto collegato, no? Gola. Sì, ma relativamente, mi spiego. Orecchio. Il prurito del condotto, a meno che non ci sia un nervo vago, quello che dicevamo prima della tosse, sì, un po' superficiale, però lo vedo poco in correlazione. E ringrazio l'ascoltatrice perché una piccola strategia per alleviare il prurito, non tanto prurito, diciamo il fastidio che si ha all'orecchio, è quello di usare un infuso di camomilla molto concentrato, quindi un dito d'acqua, una bustina di camomilla, quando è tiepida con un po' di bambagia, un po' di ovatta, si bagna l'orecchio e il sollievo è immediato. Quindi i pruriti, invece di grattarsi le orecchie con cotton fioc piuttosto che oggetti contundenti, fare questi impacchi di camomilla tiepida, ad esempio guardando la televisione, spesso sono risolutivi. Vede che vince la dolcezza. Come in tutte le cose d'altronde. Invece con le compagnie telefoniche bisogna essere un po' rigidi e un po' durini. Magari ne torniamo a parlare fra qualche istante. Peraltro invitiamo anche i nostri ascoltatori a continuare a chiamarci all'800 24 00 24. Sapete che c'è la solita sfida. di saltare, oltrepassare la barriera rosa, insomma anche con un salto triplo mortale. 800 24 00 24, perché Rosa si è attrezzata e diventa difficile. Guardate che quando vuole lì è resistente. E anche noi oggi faremo dei salti mortali, perché parleremo di disattivazione dei contratti telefonici, e lo faremo fino alla fine, e di invece attivazione del nostro udito per misurarlo un po'. Attivazione personale per capire e percepire se abbiamo questo problema. E quindi stavo pensando a chi magari viene sollecitato, abbassa un po' la radio o la televisione, magari la persona alla quale si fa questa osservazione un po' si offende, perché giustamente dice: ma oh, ma stiamo scherzando, io ci sento benissimo. E invece, dottor Burdo, ci dia anche magari qualche indicazione su come prendere per le molle, insomma, questi problemi. Magari capita anche con un vicino, no? Con un familiare. Ah certo, ma ripeto, la signora che vi ha telefonato prima ha esposto un caso il più tipico: il marito che nega e la moglie inviperita perché costui sente il telefono, la televisione ad altissimo volume. E qui guardi, qua il marito non si può disattivare, è più complicato. Quasi complicato. Non lanciare queste assist al dottor Burdo, che già prima ci ha dato la sua come dire, piccola ricetta su come comportarsi con le suocere, e qua abbiamo subito steso un velo sul commento, dottor Burdo. Sì, qui secondo me vanno messi in luce gli effetti collaterali, e cioè la mancata socializzazione, il chiudersi in se stesso. Attenzione alla depressione, spesso la sordità è la causa prima della depressione, perché chi è mezzo sordo deve concentrarsi molto, fa delle magre figure, arriva stanchissimo la sera perché i suoi livelli di attenzione devono essere sempre elevati, e alla sera casca, cioè gli crolla il mondo e cade depresso. Quindi secondo me i sintomi collaterali possono essere d'aiuto per risolvere il problema. Quindi noi possiamo puntare su questo. Dottor Burdo, io vorrei anche dare un... lei ci ha raccontato come lenire il prurito all'orecchio con la camomilla, ma ci sono anche delle ricerche che ci dicono come attraverso l'assunzione di alcuni cibi possiamo aiutare il nostro udito a mantenersi sano. Sì, poi sa, gli antiossidanti, ci sono una serie di anche mode in questo momento, sa, quello che fa bene al corpo fa bene anche all'udito, quindi una dieta sana, equilibrata, con carni rosse limitate. Ma è vero che l'acido folico è protettivo? È protettivo su tutto l'organismo. Se poi, ecco, però lei sa bene che l'acido folico noi lo è sempre considerato un po' solo per donne, perché per si assume gravidanza. Di solito, no? Prima della, adesso invece c'è un, è tornato di moda dell'acido folico, che viene prescritto e suggerito anche alle persone che non sono in, alle donne che non sono in gravidanza. E ho letto che sarebbe suggerito anche per l'udito, è vero o non è vero? Lascia un po' perplesso. Tenga presente che queste forme di terapia mirate spesso servono per evitare che il paziente indossi degli oggetti che evidenziano la sordità. Cioè, ci sono molti pazienti che ricercano terapie mediche per risolvere un problema che invece può essere risolto solo o con le protesi acustiche o in ogni caso con sistemi di questo tipo, che sono degli stigma per il paziente, e quindi il paziente richiede sempre comunque una terapia che non si veda, tra virgolette. Certo. Allora, andiamo ai nostri ascoltatori. Dove vuoi andare? Qua abbiamo molto sud, molta Puglia e molto, e anche un po' di centro Italia. Dai, io vado ad Ancona, a Marco. Buongiorno, Marco. Qua giochiamo in casa. Marco, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Io ho avuto una perforazione della membrana del timpano da giovane. Sì. E questo mi ha portato dietro veramente per fino adesso, continuo ancora a portarmi dietro delle otite croniche. Però la domanda mia verte su un'altra cosa. Io, siccome ho anche problemi alla schiena, mi hanno consigliato di fare nuoto. Sì. E vorrei sapere se ci sono soluzioni del non classico tappo, insomma, il silicone in cera. Dottor Burdo, a parte il nuoto, alcuni lo consigliano, alcuni sport, alcuni stili sì, alcuni altri no. Comunque, sul nuoto non mettiamo becco, dottor Burdo, andiamo invece sul tappo. Sì, no, il tappo di cera non tiene, ci vogliono dei tappi fatti su misura. Si va in genere in un negozio di protesi acustiche, questi sono bravi i tecnici dei negozi di protesi acustiche a prendere bene l'impronta, il calco dell'orecchio e a fare dei tappi veramente su misura. La seconda cosa da fare, che io consiglio, è di mettere del Domopack trasparente sul padiglione dopo aver messo il tappo. Mm-hmm. E infine la cuffia risolve il problema. Hai capito che scudo protettivo dell'orecchio che ci ha inventato il dottor Burdo, ma lui vuole fare i microchip, quindi senti quante ne sa. No, il dottor Burdo prima o poi fantastico. Ci arriviamo. Dalla camomilla al microchip. Esatto. Roberto da Bari, ritorniamo ancora ai problemi con il nostro gestore telefonico. Roberto, rapidissimo, perché siamo in chiusura, abbiamo appena un minuto di tempo, ci deve stare dentro. Domanda e risposta, vai. Ecco, no, io cercherò di essere breve. Praticamente mio padre ha fatto un abbonamento con Fastweb, Fastweb Mobile, e ha richiesto un cellulare, quindi lui era vincolato per un anno. Sì. Fino a qui tutto bene. Abbiamo avuto la possibilità di correlare altri due numeri, quindi ho correlato il mio numero e quello di mia madre, però senza cellulare, quindi nel momento in cui io non mi trovavo bene potevo tranquillamente recedere al contratto senza nessuna penale. E questo era chiaro dall'inizio, poi? E questo era chiaro. Nel momento in cui abbiamo cancellato tutto il contratto, la Fastweb richiede che i due cellulari senza, cioè i due numeri senza cellulare devono pagare anche la penale. Quanto le costerebbe tutto questo? Stiamo parlando di 320 euro. Ah, però, che scherzetto. Roberto, vada subito sul sito della Casa del Consumatore, firmi la petizione, perché noi a questo giochetto non ci stiamo più. Nicoletta, che ne dici? Avete sentito bene? Ecco. Io sì. Ecco, dottor Burdo, grazie per essere con noi. Ah, grazie. Grazie a voi. Grazie. Giovanni Ferrari, a presto. Abbiamo dato l'indicazione giusta all'ascoltatore di Bari? Sì, assolutamente. 300 euro. In questa diretta abbiamo guadagnato una cinquantina di adesioni. Molto bene. Vi ringrazio, andiamo avanti così. E andiamo a firmare anche io, Nicoletta. Buona giornata a tutti, a domani. Cuore e denari.